Radio Popolare presenta La Caccia, Caccia all'ideologico quotidiano, una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Buongiorno a tutti. Parleremo di inganni a senso unico, della figura proibita dell'analisi, del miglior posto disponibile e anche segnaleremo il continuo interesse psichiatrico per le amene località sciistiche.